Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci qui, nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori, i nostri diritti e ciò che invece è rovescio, come dice il titolo. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Allora, ciò che è rovescio sono i redditi delle famiglie, no? A quanto pare. Purtroppo sì, siamo a commentare l'ultimo dato diffuso dal Censis qualche giorno fa, dove praticamente ha fotografato quella che è la situazione economica delle famiglie e quello che è il reddito netto disponibile, e purtroppo è emerso che c'è stato un crollo proprio della disponibilità finanziaria netta delle famiglie, addirittura un crollo che riporta questa cifra al 1997. E oltre a esserci un crollo della disponibilità, abbiamo anche il ceto medio, che sostanzialmente è quello che accusa di più la crisi in questa fase di difficoltà che il nostro paese sta attraversando. Cioè quelli che erano poveri o insomma un po' sotto la media sono rimasti tali o forse sono peggiorati, e quelli che magari erano ricchi, cosa è successo? Sono diventati più ricchi? Praticamente i dati cosa hanno detto? Che negli ultimi 10 anni la ricchezza finanziaria netta è passata per le famiglie medie, tipiche, diciamo quelle dove ci sono 4 componenti familiari, diciamo da 26.000 a 15.600 euro. Mentre quindi sostanzialmente c'è stata una riduzione della capacità del 40,5%, mentre paradossalmente le famiglie con una ricchezza finanziaria netta superiore a 500.000 euro è raddoppiata dal 6 al 12,5%. Per quanto riguarda invece la ricchezza del ceto medio, quindi quelli compresi tra i 50.000 euro in questo caso e i 500.000 euro, le famiglie sono crollate dal 66 al 48%. Ecco il Censis pubblicando questi dati parla di 3R: il risparmio, che è sempre stato una dote tra l'altro di noi italiani, la rinuncia e il rinvio, che sono 2R, quelle che stanno venendo più avanti in questi anni. Tocchè, anche perché poi analizzando quello che è il rapporto scopriamo che innanzitutto la ricchezza si è spostata verso i componenti più anziani della popolazione, cioè quelli che hanno un'età superiore al 35%, però è anche vero che i disoccupati sono diventati circa 3 milioni di persone, c'è stato un aumento di circa 34% solamente tra il primo semestre del 2011 e il primo del 2012. Persone che cercano lavoro, poi un quarto tra i 35 e i 44 anni addirittura si colloca tra questo tipo di persone, mentre un altro quarto sono gli under 35, il 20% invece è proprio in cerca di occupazione sotto i 35 anni. Quindi cosa vuol dire questo? Che le persone che sono disperate e hanno bisogno di trovare lavoro sono il 50% sotto i 35 anni, il rimanente 50% suddiviso tra chi ha un'età compresa tra i 35 e i 44 anni e un ulteriore quarto punto, cioè 25% circa superiore ai 44 anni. Questo è un fenomeno molto delicato e critico, perché sappiamo che poi più l'età si spinge in avanti, più la difficoltà è quella di riuscire a ricollocarsi nel mercato. E a proposito di età avanzata e di famiglie, sono state loro, per un po' per tutti, credo, la vera banca, cioè i risparmi accumulati sono serviti e tuttora servono ancora, ma piano piano si stanno erodendo. Noi sappiamo che la famiglia italiana, l'italiano per definizione è sempre un po' considerato una formichina, sappiamo anche che in questo momento qui la capacità di risparmiare ormai sta praticamente svanendo, e se oggi l'Italia è riuscito a gestire o ad affrontare una crisi economica come questa è perché comunque sta erodendo i risparmi, ma trovarci nella condizione di non mettere più via ed erodere quelli che erano i risparmi che le persone avevano messo via, certamente è una situazione molto molto pericolosa che prima o poi scoprirà, e quando scoprirà le conseguenze saranno disastrose. Ma ti dirò di più, che per esempio sappiamo che il welfare italiano sostanzialmente viene garantito dal sostegno che le persone hanno dalle famiglie. Per esempio, sempre nel rapporto del 2012 c'è scritto che quasi il 30% delle famiglie ha realizzato un trasferimento economico a favore di un proprio componente. Quindi cerchiamo anche qua di dare un'interpretazione a questo fenomeno qui. Cosa vuol dire? Che pensiamo anche normalmente ai casi che abbiamo qui all'Adico. Noi ci troviamo un sacco di giovani, e giovani li riteniamo anche noi quelli che hanno un'età inferiore ai 35 anni, che hanno perso lavoro, hanno un mutuo, e le famiglie che avevano fatto da garante per mettere in condizione i ragazzi qualche anno fa a poter accedere a queste forme di finanziamento, adesso si trovano con la pensione o col lavoro a dover pagare il mutuo dei figli. Eh sì, situazione condivisa da moltissime persone, anche tra quelli che ci ascoltano. C'è qualche barlume positivo in tutto ciò? Beh, noi sinceramente in questo momento, al di là di quelli che sono i proclami preelettorali di qualcuno, in questo momento non vediamo molti barlumi, ma la cosa più triste è che non vediamo idee e non vediamo strategie da parte di nessuno per quanto riguarda l'aiuto che possono dare a queste persone e a questa situazione. Se noi io per esempio ho ascoltato con attenzione molte dichiarazioni fatte dai politici di sinistra, di destra o di altro colore, sinceramente non ho ancora sentito nessun programma. Tendono sempre a dare un po' la colpa all'uno all'altro, come se fossero tutti segretari di opposizione. In realtà ci ricordiamo che ad oggi tutti i provvedimenti sono stati comunque votati da tutti. Per quanto riguarda la situazione sempre del rapporto, possiamo dire che l'unica nota positiva, se la vogliamo dire così, è stata un po' l'internazionalizzazione che molti studenti stanno facendo in questo periodo scolastico, dove hanno capito che per poter essere competitivi bisogna cercare un po' le opportunità all'estero, e sempre più sia le famiglie che i studenti cercano di spingere appunto questi ragazzi a proiettarsi verso l'estero per cercare probabilmente verso l'estero delle soluzioni che ormai in Italia sempre con più fatica si possono pensare di riuscire a trovare. Mentre l'unico dato positivo è stato un incremento dell'8% per quanto riguarda le imprese cooperative, che sono cresciute del 14% tra il 2001 e il 2011, quindi probabilmente la cooperazione in un momento di crisi sembra che aiuti moltissimo. E diventa molto anche interessante la capacità che molte persone hanno sviluppato, da un lato con la rete o dall'altro anche coltivando l'orto, di trovare delle strategie per poter risparmiare e arrivare anche a fine mese. Ecco, allora, per i giovani si ripete la storia un po' dei loro nonni e dei loro bisnonni, a quanto pare. Su questo allora noi ci fermiamo, la settimana prossima altri due argomenti sempre con l'Adico di Mestre. Grazie Carlo, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.